folli nella mente, la febbre di viaggiare e il sole dell'estate nel cuore. Fuoco dei desideri, il bisogno di cambiare, e giocavi al vecchio gioco dell'amore. Sentivi che nessuno ti poteva fermare, eri un impavido guerriero e c'era un mondo da sfidare, ma volevi soltanto andare per la tua strada e sognare, e c'era un magico presente da inventare. Bianco, bianco puro dell'innocenza, ti rotolavi nella neve, una lacrima da nascondere, i suoi occhi da conquistare. Poi dato fuoco a quella favola, e come guida solo il vento, sorridi e la vita cambia in un momento. Non conoscevi la paura, ti gettavi sempre nei guai, ma con tanti buoni amici che ti hanno sostenuto. Non ti bastava niente, sempre a caccia di cose nuove, come un esploratore in un cosmo sconosciuto. Bianco puro dell'innocenza, ti rotolavi nella neve, una lacrima da nascondere, i suoi occhi da conquistare. Poi dato fuoco a quella favola, e come guida solo il vento, sorridi e la vita cambia in un momento. Bianco puro dell'innocenza, ti rotolavi nella neve, una lacrima da nascondere, i suoi occhi da conquistare. Poi dato fuoco a quella favola, e come guida solo il vento, sorridi e la vita cambia in un momento. Pensieri folli nella mente, la febbre di viaggiare e il sole dell'estate nel cuore. Fuoco dei desideri, il bisogno di cambiare, e giocavi al vecchio gioco dell'amore.